America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. A massive fire erupted in the middle of the night. This evening here in California, the wildfires are still burning, the death toll rising, and there are hundreds missing. Beh, l'avrete visto nelle news, il numero dei morti è salito a 13, ma potrebbe continuare a salire perché ci sono migliaia di feriti, alcuni gravi. Questo è il primo bilancio degli incendi che sono divampati nella California del Nord. La terra brucia letteralmente da domenica. Pensate, si parla di 40.500 ettari di terra distrutti dalle fiamme, 20.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case e 2.000 case, 2.000 abitazioni e negozi distrutte, ridotte in un cumulo di cenere. Questa direi è la storia che domina sul piano della cronaca. Un'altra storia che domina riguarda Harvey Weinstein, il grande produttore cinematografico caduto nella polvere per una serie di scandali sessuali che lo hanno coinvolto, ma di questo forse vorrei raccontarvi più in dettaglio nei prossimi giorni, quando avremo un quadro più chiaro. Del resto i giornali già ne stanno parlando. Oggi vorrei staccarmi dalla cronaca e raccontarvi di tecnologia e monete digitali, dei Bitcoin. Sentiamo. Bitcoin itself may or may not be the future of money, but what is clear is that digital currency is. Bitcoin, one of many competing peer-to-peer digital currencies on the market today, promises to literally transform money exchange as we know it in the concept of international trade. Beh, avete sentito, si parla di valuta digitale, di criptovaluta. Il messaggio molto chiaro: Bitcoin potrebbe essere o non essere il futuro del denaro, ma di sicuro lo saranno le criptovalute. Promettono di rivoluzionare le dinamiche attuali di scambio di denaro in un mercato su scala globale. E beh sì, perché questi Bitcoin, queste valute digitali, queste valute virtuali, sono operative ormai dappertutto, in Cina, in Europa, in America, nel mondo industrializzato, in quello in via di sviluppo, nel mondo oscuro della dark web. Ecco, di questo vi avevo parlato in altre occasioni, per esempio in una intervista che avevo fatto con Christian Catalini, che è un professore all'MIT. L'avevo intervistato per una puntata di Solo Andata e ci ha spiegato in dettaglio che cos'è il Bitcoin. Sentiamo la definizione di un professore all'MIT. Bitcoin è un esperimento che è nato, diciamo, intorno al 2008-2009 nel cuore della crisi finanziaria. Nasce nell'ambiente online dei cypherpunk come una risposta ai problemi dell'industria, del sistema finanziario del momento, ed è essenzialmente una moneta digitale basata su un mix di crittografia ma anche di game theory, quindi di economics. Ecco, direi, al di là della presunzione elettronica del nome che gli dà ovviamente molto cachet, tradurrei bitcoins più genericamente in gettoni, perché bitcoin è una denominazione particolare, ma ormai ce ne sono di vario genere. Del resto assomigliano proprio al vecchio gettone della metropolitana di New York. Però, come dire, l'aspetto materiale finisce lì, perché il bitcoin, anzi, diciamo appunto le criptovalute, perché ce ne sono di vario genere, sono monete virtuali nate ed esplose su queste piattaforme internet come blockchain. Sono al di fuori del controllo delle autorità, hanno fortissime oscillazioni speculative, promesse di Eldorado, di guadagni pazzeschi, di rivoluzione. Come funzionano in concreto? Beh, diciamo che l'economia monetaria, o comunque l'economia che ruota attorno ai bitcoin, è ancora molto piccola se la dobbiamo paragonare a quella delle normali valute, eppure sta crescendo. Per iscriversi non si deve firmare nulla, basta registrarsi sul sito bitcoin.org, si ottiene un proprio indirizzo bitcoin che serve per ricevere o inviare questo denaro virtuale. Come lo ottenete? Perché è chiaro che bisogna avere un accredito. Ci sono due modi. Intanto si offre qualcosa in cambio, cioè si vende un prodotto e in cambio si ottengono bitcoin. Oppure si acquistano direttamente queste monete scambiandole con una valuta reale. Per esempio si possono acquistare anche frazioni di un bitcoin, visto che nella grande oscillazione adesso, pensate, un bitcoin è calcolato in 4.600 dollari. Le oscillazioni però sono talmente massicce, iperboliche, che magari scende all'improvviso a 300 dollari, a 500 dollari, a 10 dollari. tra queste leggende, iperboli, crolli, recuperi, hanno orizzonti potenzialmente infiniti e molti entusiasmi, perché ci sono alcuni investitori che ci credono davvero moltissimo. E i visionari promettono che cosa? Beh, che questa valuta supererà il valore esorbitante, pensate, di $250,000 da qui ai prossimi 10 anni per un bitcoin. E quindi chiaramente un sacco di gonzi comprano e si crea un Ponzi scheme, secondo me. Ecco, naturalmente adesso sarò attaccato da chi dice sei retrogrado perché questi bitcoin rappresentano il futuro. Però c'è qualche cosa che non va. Per esempio Aaron Lasher, cofondatore di Bree Wallet, che è un portafoglio virtuale per token digitali, dice che il rischio di bolle è dietro l'angolo. Anche Robert Shiller, premio Nobel per l'economia, uno di coloro che vide la crisi immobiliare del 2007, dice Bitcoin è attualmente il miglior esempio di bolla. Chinese Bitcoin Exchange, BTC China, will stop all trading as regulators crack down on the nascent cryptocurrency sector in a bid to stamp out potential financial risks. Avete sentito? Bitcoin senza freni, la Cina corre ai ripari. Cosa hanno fatto i cinesi? Beh, insomma, guardano sempre lontano i cinesi. Secondo loro il 90% delle attività ICO sono fraudolente. La Banca Centrale di Pechino ha detto che saranno severamente punite, sanzionate tutte le offerte future. Naturalmente i banchieri centrali si difendono. Mario Draghi dice nessuno Stato membro può introdurre una propria valuta. La valuta dell'Eurozona è l'euro. E dunque questi bitcoin che ci stanno a fare? Insomma, c'è una contraddizione evidente, palese, che in qualche modo dovrà essere risolta, perché a questo punto il mercato è selvaggio, il Far West. Pensate che l'Estonia voleva introdurre una sua moneta virtuale che si chiama Estcoin, sulla scorta appunto dei bitcoin. Quali sono i potenziali? Iperbolici. Ethereum, che è un altro di questi gettoni, è salito del 4100% in un anno a quota $319, poi in una settimana è precipitato a 10 centesimi. Beh, insomma, stiamo parlando chiaramente di una situazione molto molto pericolosa, perché coi bitcoin, vi dicevo, si possono fare raccolte di capitali. Una startup recentemente ha proposto di raccogliere capitali via internet offrendo gettoni in cambio e sono passati di mano oltre $100 milioni in pochi secondi senza dover pagare le commissioni ai banchieri. Non c'è controllo. Che ne sappiamo che questa startup sia davvero credibile o no? Per non parlare dei traffici criminali sulla dark web. Secondo Catalini, le criptovalute rappresenteranno una rivoluzione più grande di quella che ha rappresentato internet. SEC, ma anche Fed, Tesoro, G7, ONU e quant'altro. Aiutateci voi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su Mario24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPratero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo un rap dedicato proprio al mondo dei Bitcoin, devo dire, non poteva mancare. Dei Whitey Cracker, Bitcoin Baron. You know rappers like to rock chains, rock chains. I rock block chains, knock them out the box, I'm on Cox main. Key ring full of wallet data, I got a prey to my ASIC incinerators. Load a mine like a creeper one time in my circus divine. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!